Speciale Europei 2008. Buongiorno da Dario Ricci. Si deciderà in questi giorni il futuro di Roberto Donadoni come CT azzurro. Entro la fine della settimana, infatti, in programma l'incontro col presidente della Federcalcio Abete. Scontato l'addio e il ritorno sulla panchina dell'Italia di Marcello Lippi. Intanto oggi si torna a parlare di calcio giocato. Germania-Turchia, Basilea eleggerà la prima finalista. La sicurezza contro la sorpresa. La Germania quadrata e regolare contro la Turchia sparagnina e miracolata. Questa sera c'è in gioco la finale, nella partita secca tutto può succedere. L'ambiente è caldo e lo sarà anche il match. Quello di Basilea è quasi un derby. Nelle città tedesche vivono infatti 2 milioni di turchi. La Germania ha già fatto fuori il Portogallo bello, spettacolare e perdente. Klose, Ballack e Podolski sono pronti ad annientare anche la grande rivelazione del torneo. Senza badare troppo al romanticismo e alla tradizione che, dopo Danimarca e Grecia, vorrebbe il titolo europeo anche questa volta nelle mani dell'ultimo venuto. Alla Turchia, secondo i bookmaker, servirebbe un miracolo per vincere la sfida. Ma Terim ha la buona sorte dalla sua parte e di miracoli ne ha già fatti vedere un paio. Luca Veronese, GR24, Il Sole 24 Ore, Basilea. I turchi inseguono quindi la prima finale europea della loro storia. Tra squalifiche e infortuni, la rosa di Fatih Terim è ridotta all'osso, ma il grande condottiero nell'impresa ci crede. Germania molto duro, molto forte squadra, abbottiati sempre torneo, sempre campioni del mondo europeo, molte esperienze, però 90 minuti e speriamo partita, possiamo fare tutto la casa in cosa in campo, vogliamo vincere se è possibile. Vogliamo finale? Sulla semifinale di oggi abbiamo chiesto un parere a Nevio Scala, ex tecnico del Parma, che ha allenato anche i turchi del Beşiktaş e i tedeschi del Borussia Dortmund. La Turchia ha avuto un po' di fortuna, ha avuto dalla sua parte questa grande voglia, questa grande vitalità, ecco, gente che non molla mai, che corre fino al 90esimo, probabilmente frutto del lavoro di Fatih Terim. Però ecco, la Germania, io credo che al di là della sconfitta con la Croazia, la Germania sappiamo che quando c'è da tirare fuori qualche cosa di importante, lei lo tira sempre fuori, anche se ha fatto una prestazione un po' di sotto delle proprie possibilità. Vediamo, con la Turchia potrebbe anche avere, non dico vita facile, ma potrebbe, se entra in campo con la stessa determinazione con cui è entrata nella prima gara e nell'ultima, credo che la Germania possiamo trovarla in finale o con la Russia o con la Spagna. Domani in campo a Vienna proprio Russia e Spagna. Occhi puntati sul talento russo Arshavin, sulle tracce del quale ci sarebbe l'Inter. Ma lui vuole giocare in Inghilterra o Spagna, assicura Dick Advocat, l'olandese che lo allena allo Zenit San Pietroburgo. Intanto la stampa svizzera alimenta la polemica sulla designazione dell'italiano Rosetti come arbitro della finale. Una decisione politica, ha scritto il quotidiano Le Matin, che non tiene conto degli errori commessi da Rosetti a danno della Svizzera nella gara inaugurale del torneo contro la Repubblica Ceca. E per lo speciale Euro 2008 è tutto, ancora una buona giornata da Dario Ricci.